9 in punto. Bentornati ai nostri ascoltatori, bentornati a 9 in punto. Oggi parliamo dell'America, parliamo degli Stati Uniti, ma parliamo anche di noi, perché gli Stati Uniti sono estremamente importanti. Parliamo anche dei problemi di casa nostra, parliamo anche del lavoro che non c'è sicuramente, parliamo anche delle prospettive dell'economia. Ma abbiamo con noi Mario Pratero. Buongiorno Mario Pratero. Buongiorno Gianfranco. Mario Pratero. America 24. E questa è la sigla del programma di Mario Pratero, che ogni giorno alle 6:30, alle 13:45 su Radio 24 ci accompagna alla scoperta dell'America e a capire come l'America sia importante per noi, questo grande paese che ci condiziona anche negativamente qualche volta, come abbiamo visto con la crisi, ma anche speriamo positivamente in futuro. Lo vedremo. E saluto anche Riccardo Pennisi. Buongiorno. Buongiorno. Riccardo Pennisi è analista politico della rivista Aspegna e di Limes e ha scritto proprio per l'ultimo numero un rapporto, un saggio sui rapporti Europa-americani. Allora, Mario Pratero, come sta l'America? Ma dunque, scusa Gianfranco, intanto devo dirti, mi hai fatto commuovere, perché sentire la mia sigla mentre siamo qui a Milano, io sono qui di passaggio, ai nostri ascoltatori, quindi ti ringrazio, ma l'America sta bene dal punto di vista economico, sta male, o comunque a qualche momento così di riflessione e di incertezza dal punto di vista etico-morale, perché il paese è di nuovo spaccato proprio ieri su una questione chiave che riguarda gli Stati Uniti, in questo caso il diritto dei gay. C'è stata l'approvazione di una importante decisione della Corte Suprema americana, che ha abrogato una legge che creava dei problemi economici sui diritti dei gay. E ecco, quindi questo, diciamo, è proprio l'approccio. Non è che la legge della Corte Suprema ha stabilito che gli uomini e le donne sono uguali, che non poteva stabilirlo. Però dietro questa decisione c'è una realtà economica, sono degli interessi economici molto forti. Quali sono? Ma in questo caso c'era una discriminazione. Come sai, in America ci sono alcuni stati, 12 stati, che consentono alle coppie gay o lesbiche di sposarsi e di avere un matrimonio. Però c'era una legge che si chiama DOMA, che è una legge che proteggeva o creava una differenza sulle coppie eterosessuali e le coppie che invece erano dello stesso sesso. E quindi, per esempio, dal punto di vista ereditario dovevano pagare un sacco di soldi in più, non avevano accesso agli ospedali, non potevano andare negli ospedali a visitare i parenti, non potevano, o comunque il compagno, non potevano godere dell'assicurazione medica e così via, così via. E quindi dal punto di vista economico ovviamente c'era un impatto forte per l'individuo, per le coppie. La Corte Suprema ha eliminato questa parte, diciamo, e non solo, ha rifiutato di intervenire su un altro articolo importante, cioè la Proposition 8, che era stata votata nel 2008 in California, che abrogava invece la possibilità di sposarsi in California. E quindi a questo punto probabilmente la California potrà procedere e autorizzare i matrimoni gay. Ecco, questo sicuramente è un tema in primo piano, è un tema che ovviamente divide anche le coscienze. Ci sono delle visioni che possono essere anche diverse, sono però degli interessi economici alle spalle. Ecco, indubbiamente eliminare le discriminazioni è un dato importante, però mi sembra personalmente altrettanto importante favorire le famiglie che hanno un compito anche di mantenere viva questa società con la dinamica sociale, con la creazione appunto di famiglie che abbiano dei figli che possono continuare questa nostra società. Gianfranco, ma qui ti posso raccontare delle storie, perché in effetti queste coppie sono professionisti, noi abbiamo una visione qua in Italia forse che è un po' indietro, ma che se sono delle coppie che si sposano e hanno dei figli. No, indietro sarete voi in America, noi in Italia siamo molto più avanti di voi, abbiamo molti più valori solidi di sono quanto sicuro, potete avere. Ma infatti sono sicuro che gli ascoltatori non approveranno, però sentiamo cosa hanno da dire, perché secondo me invece è una cosa molto importante. Ecco, io però tornerei Mario Pratero anche ai temi economici che sono in primo piano, e non vorrei parlare d'altro rispetto ai temi economici che condizionano la nostra vita quotidiana, condizionano i nostri redditi, la nostra possibilità di vita e condizionano anche il lavoro nostro e soprattutto dei nostri figli. In questi giorni ci sono sul tappeto molti temi, le notizie di attualità sono quelle che abbiamo sentito, abbiamo visto sui giornali. giornali, per esempio, c'è questa economia americana che continua ad andare bene, anche se rallenta secondo rispetto alle aspettative. Il PIL, il prodotto interno lordo del primo trimestre, ha chiuso con un 1,8% di crescita, che è tutt'altro che negativo, anche se gli analisti aspettavano un 2,4%. Quindi l'economia americana, Mario Platero, ha ripreso a camminare. L'economia americana ha ripreso a camminare, sta creando posti di lavoro al ritmo di 100, 150, 170 a seconda dei mesi, 1000 posti di lavoro all'anno, e stiamo parlando di nuovi salariati dipendenti, quindi dipendenti in busta paga, non consulenti o part time. Non è ancora al livello a cui dovrebbe arrivare secondo la Federal Reserve, c'è un tasso di disoccupazione del 6,5%, siamo ancora a un tasso di disoccupazione del 7,6%, però è avviata nella giusta direzione, e il presupposto dal punto di vista americano è che sono state adottate delle misure di stimolo che da noi in Europa invece sono state alquanto ignorate. Cioè, da noi si è prima pensato a stringere e all'austerità, mentre in America si è detto no, prima spingiamo e poi passiamo all'austerità. E infatti l'America adesso sta passando all'austerità, perché ci sono i tagli automatici delle spese, perché la Federal Reserve ha annunciato che a un certo punto comincerà a rallentare l'emissione monetaria, e dunque l'America chiede, questo l'ho sentito al vertice che abbiamo, al vertice del G8 in Irlanda del Nord, l'America chiede che l'Europa raccolga la staffetta e chiede che lo faccia in molti modi. Quindi che l'Europa possa fare quello che l'America ha fatto negli ultimi anni, cioè sostenere l'economia anche attraverso una politica monetaria più accondiscendente, anche se la politica monetaria ha qualche limite, perché i tassi più bassi dello zero difficilmente possono andare. L'America ha insegnato che i tassi sono talmente bassi che ridurli adesso è matematicamente difficile. C'è un cambio della guardia in vista negli Stati Uniti, alla Federal Reserve, alla banca centrale. A fine anno, se non prima, Ben Bernanke se ne andrà. Cosa può voler dire questo cambio della guardia al vertice della politica monetaria americana, Mario Platero? Ma guarda, non credo che significherà, avrà un impatto particolarmente rilevante, a meno che non ci siano delle nomine a sorpresa. Che ne so, metti che Barack Obama decide di nominare Paul Krugman, ecco, ma non credo, perché la candidata più favorita in questo momento è Janet Yellen, che è già alla Federal Reserve, e quindi il percorso che ha illustrato il presidente Bernanke da qui al giugno-luglio dell'anno prossimo credo che resterà invariato, anche se dovesse esserci un cambio della guardia. Questo percorso, per riassumerlo ai nostri ascoltatori, prevede che la Fed, che tu hai ragione, il tasso è a zero, però la Fed che cosa ha fatto? Ha fatto questo quantitative easing, cioè ha cominciato a buttare ulteriore liquidità sul mercato, 80 miliardi di dollari al mese, quindi una cifra enorme, per creare liquidità e per rendere questa liquidità disponibile. Ecco, la Fed ha annunciato che comincerà a ridurre questa liquidità, e poi si vedrà. Però Bernanke è stato molto chiaro, noi, dice, toglieremo il piede dall'acceleratore, ma non metteremo il piede sul freno. Quindi continuerà appunto questa politica, e qualcuno dice che, dato che l'economia va bene ma non così bene come si aspettava, può essere anche più lento questo ritiro del piede dell'acceleratore. Quindi continuare questa politica di facilitazioni appunto monetarie verso l'economia, che può avere un effetto positivo, ha avuto un effetto positivo, come si sta vedendo appunto dei dati dell'economia americana. Io vorrei sentire Riccardo Pennisi sul tema dei rapporti euro-americani. Si è avviato questa trattativa per questa zona di libero scambio tra l'Europa e gli Stati Uniti. Quali possono essere le prospettive non solo di questi incontri, ma proprio per gli effetti economici che può avere questa apertura dei rapporti commerciali, che peraltro sono già abbastanza aperti, tanto che, come lei giustamente scrive della sua analisi su Aspegna, i flussi commerciali tra Europa e Stati Uniti danno origine alla maggior relazione economica del mondo. Riccardo Pennisi. Sì, sicuramente le trattative tra Europa e Stati Uniti per l'apertura della zona di libero scambio stanno partendo proprio all'inizio di luglio, quindi sicuramente, diciamo, l'Europa dal suo punto di vista ha risolto i propri dubbi sul mandato negoziale da affidare ai tecnici della Commissione Europea che negozieranno insieme ai delegati della Casa Bianca del Congresso americano. Dal punto di vista dell'Europa e degli Stati Uniti sono un po' diversi gli obiettivi che si sperano di raggiungere dal completamento e dal raggiungimento di questo accordo. Un accordo che dal punto di vista europeo si spererebbe magari di chiudere entro un anno, ma probabilmente ce ne vorranno almeno due per davvero trovare l'accordo su molti punti, diciamo, che dividono le due sponde dell'Atlantico. In questo momento sono sicuramente gli Stati Uniti, come avete anche fatto notare voi, che si trovano un po' col coltello dalla parte del manico, perché la situazione economica negli Stati Uniti è abbastanza migliore in questo momento rispetto a quella europea, dove non solo, come avete appunto fatto notare, le politiche anticrisi e di austerità non hanno portato i risultati sperati, ma anche nei paesi che si stavano dimostrando più forti, proprio come la Germania, diciamo, si assiste negli ultimi mesi, negli ultimi trimestri, a un rallentamento, a un peggioramento delle prospettive economiche. Quindi in realtà gli Stati Uniti vogliono offrire all'Unione Europea uno strumento di crescita e di aumento delle esportazioni, soprattutto a breve termine. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'obiettivo principale non è solo quello di aumentare le esportazioni naturalmente per l'Europa, ma di avere nei confronti dell'Europa e quindi di quella che tra entrambi, diciamo, costituisce l'area economica più importante, più grande del mondo, uno strumento normativo di contorno piuttosto semplice, molto più semplice di quello attuale, che è adesso ancora pieno di non solo di dazi, appunto, come abbiamo detto, ma soprattutto di norme che limitano a livello legislativo, appunto normativo, la possibilità di esportare e di commerciare liberamente, e di avere questo strumento in modo tale da, avendo un quadro normativo comune sia con l'Europa sia con alcuni stati che si affacciano sul Pacifico, di affrontare poi le future trattative commerciali con il gigante cinese da una posizione sicuramente di forza più organizzata e più coerente. Ecco, ma l'Europa, dottor Pennisi, come si presenta questo accordo, queste trattative? È un'Europa unita o ci sono paesi che hanno altri obiettivi o obiettivi diversi rispetto a un obiettivo unitario? Dunque, naturalmente i paesi d'Europa sono tanti, 27, adesso 28 anche con l'ingresso della Croazia. È molto difficile metterli tutti d'accordo. C'è da dire che, contrariamente a quello che uno potrebbe aspettare, molti paesi europei hanno sempre visto di buon occhio in realtà la stipula di un trattato di libero commercio con gli Stati Uniti, proprio per i vantaggi economici che si pensa di ricavare da un simile trattato. Soprattutto sempre ad avere l'impulso in questa direzione sono stati tradizionalmente i tedeschi e gli inglesi, mentre le resistenze maggiori sono arrivate dalla Francia, un paese che diciamo è molto geloso sia della propria prerogativa nazionale e all'interno di questa delle proprie politiche industriali, che sono, come tutti sanno, molto profonde, molto, diciamo, capaci, certo, di intervenire su ogni ambito della vita economica. Lo Stato francese è molto molto presente. Quindi all'interno di questo negoziato, però, dato che l'Europa negozierà su un mandato da affidare ai tecnici della Commissione, in realtà gli Stati europei avrebbero potuto intervenire e dire qualcosa solo all'inizio delle trattative, prima che questo mandato fosse scritto, perché durante il mandato, cioè durante il periodo di trattative, gli Stati molto difficilmente potranno fare sentire la loro voce. Certo. Quindi la Francia, lo Stato appunto più contrario e soprattutto l'unico che ha la forza tra i contrari, se ce ne sono altri, diciamo, di farla sentire, perché le ritorsioni che gli Stati Uniti potrebbero, diciamo, esercitare nei confronti di piccoli stati che volessero opporsi a una trattativa del genere sarebbero molto pesanti. La Francia è riuscita, diciamo, a inserire una specie di clausola nel mandato affidato alla Commissione riguardo al settore di produzione culturale e audiovisiva. Questo è un settore tradizionale del... Certo, la Francia tiene molto alla propria identità, esatto, culturale, alla propria lingua, e l'invasione dell'inglese va in qualche modo indubbiamente contrastata, anche se Mario Platero mi guarda un po' male. Ma c'è una domanda da un ascoltatore. Grazie Pennisi, ma resti con noi. Certo. Dice: signor Platero, ho due bambini piccoli, come faccio a venire a lavorare in America? Ah! Vedi, e questa, no, dunque noi abbiamo fatto su America 24, abbiamo una specie di rubrica che si chiama Solo Andata, è solo andata perché ci sono molte persone che in effetti ci scrivono, ci chiamano, dicono: ma noi vorremmo venire a comprare un biglietto di solo andata. E tutto questo nasce dalla storia di un camionista che pensa, noi pensiamo alle fughe dei cervelli, no? Invece in questo caso era un camionista che addirittura voleva venire in America a fare il camionista. Come si fa? È difficile. È difficile perché ci vogliono dei visti, ci vogliono dei permessi, bisogna avere un lavoro oppure bisogna fare un investimento. Non è che ci vogliano delle cifre colossali, quindi venire in America con dei soldi, non so, 20.000 euro per esempio, e costituire una piccola società che si inventa un business di qualunque genere. Quindi si costituisce una società, ci si fa assumere da questa società e si ha il diritto di stare in America. Di fatto hai il diritto di imprenditore, tra virgolette, sì. Però ovviamente poi ci vuole un business, sennò poi i 20.000 euro spariscono molto rapidamente, quindi non è molto semplice. Non è molto semplice, però resta una strada. Molti giovani, molti laureati italiani cercano la strada degli Stati Uniti, vengono a studiare e poi si fermano negli Stati Uniti. La comunità italiana in America non è solo quella nata agli inizi del Novecento con le grandi migrazioni, ma è anche quella più recente di molti giovani che hanno trovato l'America in America. Sì, con esperienze molto diverse. Devo dire, ci sono quelli che arrivano, fanno un master oppure fanno il college, poi tornano in Europa, non necessariamente in Italia, e quelli che invece restano. Studiando in America si può avere la possibilità di avere un visto di soggiorno che ti consente di stare un anno e mezzo, 2 anni, e quindi trovare un posto di lavoro, e poi una volta che sei entrato è l'azienda che ti dovrebbe sponsorizzare. Però c'è una nuova legge sull'immigrazione in discussione, stanno cercando di serrare i bulloni, e per esempio, per chi fosse informato tecnicamente su queste cose, il visto J1, che consentiva agli studenti italiani di venire in America e fare un training, e a questo punto ha anche qualche restrizione, cioè il datore di lavoro che assume per l'internship deve avere oltre 5 dipendenti, altrimenti non potrà assumere nessuno. Quindi ci sono molte limitazioni, non è impossibile, è difficile, però anche questa è una possibilità che comunque si può verificare, si può tenere presente. Sentirei un ascoltatore prima della pubblicità. Mirko da Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Le volevo chiedere, volevo chiedere la vostra opinione sul fatto, io sono appassionato di economia e mi sono avvicinato appunto con questa crisi economica ad analizzare un po' i grafici così, e mi sono reso conto che la situazione di oggi, quella americana, assomiglia sempre di più alla stagnazione che dal 65 al 75 portò la stagnazione in America. Ecco, quello che io chiedo, cioè, c'è anche una coincidenza anche di dati reali. Il fatto che ci scoppiò il Watergate nel 72, nel giugno del 72, quindi anche c'è una coincidenza di mesi come il giugno del 2013, possa portare le dimissioni di Obama? 9 in punto. Bentornati al nostro programma, stiamo parlando oggi di America, di Stati Uniti, della realtà americana, dell'economia americana, della società americana. Ne parliamo con Riccardo Pennisi, analista politico della rivista La Spegna, e corrispondente del Sole 24 Ore di Radio 24 da New York, Mario Plateo, che è anche titolare della rubrica America 24, che va in onda tutti i giorni alle 6.30 e alle 13.45 su Radio 24. Abbiamo concluso la prima parte con un ascoltatore che chiedeva a Mario Plateo. Mirko da Milano chiedeva quale sarà il futuro di Barack Obama. Beh, chiedeva addirittura se non ci fossero in vista dimissioni di Barack Obama per una serie di coincidenze temporali. Allora, Mirko ha ragione su un punto. Siamo, e questo era stato pronosticato, in un periodo di relativa stagnazione dal punto di vista, per esempio, dell'andamento della borsa, perché la borsa americana ha recuperato moltissimo, ma è tornata appena al di sopra dei livelli massimi di alcuni anni fa, e qualcuno aveva detto questo durerà per parecchio tempo. Dal punto di vista di un paragone con il Watergate e con le dimissioni di Nixon, direi siamo piuttosto lontani, perché Nixon violò delle leggi e ci fu un impeachment, quindi la procedura di impeachment in Parlamento, e lui decise di andarsene. È vero che Obama è in gravi difficoltà, perché da un punto di vista cronologico nel giro di un mese gliene sono capitate di tutti i colori, ha dovuto ricevere attacchi fortissimi, violenti, durante le audizioni su Bengasi, quando ci furono le dimostrazioni che portarono all'uccisione dell'ambasciatore americano. Poi c'è stata la notizia che il governo americano aveva messo il naso nei telefoni della Associated Press, quindi nel giornalismo, nella stampa, libertà di stampa. E di molte migliaia di persone, peraltro. Beh, in quel caso erano 100 giornalisti, in quel caso, che venivano colpiti direttamente. Poi, dopo, è venuto lo scandalo enorme, quello di Snowden, che ha denunciato come la National Security Agency, che è una società molto secretive, un'agenzia federale molto secretive, che controlla le comunicazioni, aveva messo sotto controllo le telefonate, gli scambi telefonici, metadati, ma non necessariamente le conversazioni, di milioni, decine di milioni di persone negli Stati Uniti, fuori dagli Stati Uniti e così via. Poi c'è stato un altro scandalo, perché è venuto fuori che il fisco americano a un certo punto aveva messo il naso in modo voluto, diciamo, in esponenti importanti del Partito Repubblicano. E quindi questo ha creato ovviamente una grossa sensazione. Poi c'è stata quella ridicola vicenda della spia russa, della spia americana in Russia, che aveva la parrucca e poi è stato arrestato. Ecco, è stato su questo, diciamo, background che poi c'è stato lo scandalo attuale, quello della... Però Obama cosa fa? Obama adesso è in Senegal, dopo il viaggio in Irlanda è partito per l'Africa, un viaggio molto importante anche dal punto di vista emotivo. Di questo magari parleremo anche tra poco, proprio dell'Africa, perché c'è stato una tappa in Egitto in cui hai seguito Obama, mi sembra. Sì, beh, questo sì, qualche anno fa, infatti, certo. Che e in questa prospettiva però concludi pure il discorso degli scandali attuali, come potrà uscirne il Presidente? Beh, Obama è in difficoltà, i sondaggi nei suoi confronti sono negativi e a questo punto lui cerca di distogliere l'attenzione e di contrattaccare con delle proposte, con delle misure aggressive. Per esempio, l'altro giorno ha tenuto un discorso molto importante per l'ambiente e ha introdotto delle nuove regole che hanno la possibilità di essere introdotte attraverso dei decreti esecutivi, quindi non di passare attraverso il Parlamento, e dovrebbero portare a una riduzione delle emissioni di gas nocivo del 17%, oppure ha annunciato la legge sull'immigrazione, insomma sta cercando di recuperare dove può. Ecco, peraltro non deve battersi per la rielezione. No. E quindi su questo è un suo punto di forza. È un suo punto di forza, però come tu sai, Gianfranco, perché ne abbiamo parlato negli anni passati a lungo, a un certo punto il Presidente diventa lame duck, anatra zoppa. E dunque la domanda di fondo non è tanto se Obama se ne andrà, ma se è già diventato anatra zoppa. Ecco, allora sentiamo anche Massimiliano da Verona, buongiorno. Pronto? Sì, ci dica. Me la sento malissimo. No, io noi la sentiamo, sì. Esperto, io. Cioè, volevo capire una cosa, mi scusi, la mia ignoranza meno. Cioè, qualche anno fa la Cina aveva aiutato quello che era l'America stessa, investendo dollari americani in quello che era l'economia americana, no? Per far ripartire l'economia, perché aveva acquistato il debito pubblico americano. Adesso il PIL americano sta ripartendo, però la Cina è un po' in regressione. Cioè, questo controtendenza di questo fatto qua, la cosa è causato, perché il fatto il debito americano, quello che si è in mano ai cinesi stessi che avevano investito una marca di soldi. Grazie mille, grazie per la domanda. Beh, la Cina non è tanto in regressione, diciamo che ha frenato anche l'economia cinese, sta frenando, non sta crescendo più a doppia cifra, oltre il 10% come ha fatto per qualche anno negli anni passati, adesso sta crescendo a livelli del 7-8%, però la Cina continua a crescere. È vero che la Cina ha acquistato titoli di Stato americani, è uno dei più forti, anzi il più forte possessore di titoli di Stato americani. Ecco, però quale sia la politica cinese verso l'America lo chiediamo a Mario Plotino. Beh, dunque è una politica un po' tesa, devo dire, perché c'è stato un vertice, tra l'altro quando abbiamo avuto la notizia di Snowden che ha denunciato questa politica americana di spionaggio sui numeri di telefono, è avvenuto proprio mentre c'era il primo incontro tra Barack Obama e Xi Jinping, che è il nuovo leader cinese, quindi è stato un vertice con qualche nuvola. Però direi che gli Stati Uniti e la Cina sono legati dal doppio filo, l'uno non può fare a meno dell'altro. Perché il debito cinese, perché la Cina investiva nel debito americano? Beh, perché la Cina aveva bisogno che gli americani comprassero i suoi prodotti, quindi c'era un meccanismo automatico, la Cina si fida della credibilità e del credito americano, intanto gli dà in prestito dei soldi e quelli acquistano dalla Cina, e quindi sono tutti contenti e le economie vanno avanti. Ecco, in questa prospettiva qualcosa però sta cambiando e la prospettiva dei rapporti, appunto, dice abbastanza tesi tra Pechino e Washington. Sì, tesi. Direi anche sul piano politico, sul piano militare, la Cina ha messo un po' il piede sull'acceleratore, sta per esempio costruendo delle portaerei, cosa che prima non faceva, sta spendendo di più nella difesa, fa hacking sulle aziende americane, cioè penetra i sistemi di computer informatici delle aziende americane per cercare di estirpare segreti. Insomma, ci sono molte tensioni, però dal punto di vista economico l'equazione più o meno resta quella che è, con una variante. È stato interessante vedere come alcune aziende americane hanno cominciato a riportare in America, nel settore manifatturiero, del business. Perché? Perché i salari cinesi cominciano ad aumentare, diventano meno competitivi, soprattutto su quel tipo di produzione, cioè produzione pesante, non so, lavatrici, frigoriferi, automobili, insomma, che richiedono molti soldi per la spedizione attraverso il Pacifico. Ecco, ci sono alcune domande, iniziamo dalla più, quella che dice, scusate l'amenità, ma non è un'amenità, cosa significa la frase che Platero dice sempre nella sua trasmissione, get going? Ah, get going, bene, bene, dunque... Get going vuol dire, insomma, è un po' intraducibile perché è uno slang, però vuol dire buttatevi in avanti, andiamo avanti, diamoci da fare. Insomma, qualche cosa si può sempre fare. Che, insomma, è qualcuno molto... faccia qualcosa, si dice sì, in Italia. È molto il rimboccarsi le maniche, che è un motto molto americano, insomma, davanti alle difficoltà, davanti ai problemi, si guarda in avanti, si lavora, non ci si lamenta, non ci si piange addosso e si va avanti. Quindi credo che dobbiamo farlo anche noi. Ecco, un altro ascoltatore dice, ma lui risulta che ci vogliono almeno 500.000 euro per fare una impresa negli Stati Uniti. Ecco, Mario Pratero parlava di 20.000 euro, forse 20.000 euro sono un po' pochi, ma 500.000 sì, sono veramente tanti. Sì, non credo, non ho i dati davanti a me, ma da quel che mi ricordo non è una cifra di 500.000 euro di investimento per fare una cosa di questo genere. Cioè per fare una società, una piccola società, una start-up, come una si start-up, dice, esatto, esatto. Servono molto meno soldi. Allora, diciamo che il capitale sociale necessario per aprire una società americana, cioè se chiunque dei nostri ascoltatori domani volesse aprire una società in America, ma non deve depositare per una SRL oppure anche per una Inc, per una corporation, un capitale sociale di $500 e ha la società, dopodiché la deve dotare del capitale di cui ha bisogno. Sì, con $500 non si va molto lontano, però si comincia, si può, sì, cominciare, si può costituire appunto questa impresa, indubbiamente poi bisogna pagare gli avvocati, pagare anche negli Stati Uniti ci sono gli avvocati, sì, commercialisti. Sì, però voglio dire, con poche migliaia di dollari si costituisce una società. Ecco, New York, è uscito da poco un libro dedicato proprio a New York, scritto da Tech and the City, New York come capitale delle queste start-up, di queste società fatte dai giovani che nel campo delle nuove tecnologie riescono appunto a trovare uno spazio anche a costi molto ridotti, perché appunto le nuove tecnologie permettono di avere un'impresa che produca soprattutto dei servizi senza degli impianti produttivi, senza dei macchinari, ma soprattutto grazie all'intelligenza, alla capacità e alla creatività. Sì, e parliamo di Silicon Alley, anzi questo è un tema che ho affrontato un paio di volte nella mia trasmissione e che approfitto, visto che siamo qui, per rilanciare su Milano, perché il sindaco Bloomberg a un certo punto in una conferenza stampa ha annunciato che coloro che avevano dei prodotti software, di sviluppo software, quindi parliamo di startup high tech, made in New York, quindi non si parlava più di made in America o made in USA, ma made in New York, avrebbero avuto dei vantaggi, quindi con un forte contenuto di produzione newyorkese, diciamo milanese, e potevano avere delle agevolazioni per gli affitti, potevano avere degli sgravi fiscali e così via, così via. E dunque una gran quantità di queste piccole aziende che sono partite hanno aderito al programma e pensate, tutto è raccolto sotto un gruppo di aziende internet, cioè sotto un ombrello di aziende tutte su internet. E queste lavorano insieme, interagiscono e ci sono offerte di lavoro per 3.000 persone, cioè ci sono 3.000 offerte di posti di lavoro attive su questo sito che raccoglie queste aziende che sono state incoraggiate dal sindaco. Credo che forse ci si potrebbe pensare anche a Milano. Si può pensare anche perché Milano ha un'occasione davanti a sé, l'occasione è quella dell'Expo 2015. Peraltro proprio in vista dell'Expo 2015, nel decreto approvato ieri dal governo, ci sono delle misure che attuano una maggiore flessibilità del lavoro, che in pratica in deroga alle norme attuali permettono a Expo 2015 e alle aziende collegate, proprio per il carattere diciamo provvisorio di questa iniziativa non permanente, di superare le norme attuali. Da queste misure si spera appunto di avere anche una spinta all'occupazione giovanile, dando appunto maggiore flessibilità ed eliminando alcune rigidità che ci sono attualmente. Questo negli Stati Uniti sarebbe una cosa normale. Sarebbe una cosa normale. Se qui stanno facendo 10, dovrebbero fare 100. Come dici, Gianfranco, il 2015 è un'occasione d'oro. Allora approfittiamone per far vedere che Milano ha high tech, quindi che si diano delle agevolazioni agli investimenti, perché poi i giovani, due o tre giovani, ventenni, ventitreenni, venticinquenni, si mettono insieme e chissà, magari abbiamo la nuova Apple. 9 in punto. Eccoci ancora a 9 in punto, concludiamo il nostro viaggio in America, la nostra scoperta dell'America, oggi 27 giugno 2013. E tra le notizie di oggi c'è anche questo accordo fatto in Europa per dare delle regole comuni di fronte agli eventuali fallimenti delle banche, e le regole bancarie sono un elemento importante anche nei rapporti tra Europa e Stati Uniti. Io vorrei chiedere a Riccardo Pennisi, ricordo analista politico della rivista Aspedia, se questi rapporti appunto di carattere anche finanziario, per esempio c'è un contenzioso aperto non tanto tra l'Europa e gli Stati Uniti quanto tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul fronte delle regole fiscali, c'è una volontà degli Stati Uniti di far applicare le regole di quelle che vengono chiamate il FACTA, l'accordo complessivo per lo scambio di informazioni a livello fiscale tra tutti i paesi. Ecco, queste normative fiscali e bancarie possono agevolare o compromettere i rapporti tra Europa e Stati Uniti? Riccardo Pennisi. In realtà queste normative dovrebbero agevolare i rapporti tra Europa e Stati Uniti, e in ogni caso c'è accordo a livello europeo, a livello di Consiglio europeo e quindi di Unione europea, sull'adozione a livello appunto di Unione Europea di queste regole, perché esistono appunto delle entità territoriali degli stati in Europa, proprio come la Svizzera, al di fuori dell'Unione Europea, ancora coperti da segreto bancario e quindi utilizzati per operazioni finanziarie non chiare, nelle quali diciamo così le varie polizie finanziarie e gli istituti di controllo dei paesi europei non possono controllare. Ma ci sono ancora dei paesi europei facenti parte dell'Unione ancora coperti da segreto bancario, che quindi l'Europa essa stessa non è riuscita a regolare al suo interno. Questi paesi sono soprattutto l'Austria e il Lussemburgo, che hanno delle normative molto favorevoli alla protezione dei dati bancari, praticamente inaccessibili. E naturalmente sarebbe l'obiettivo dell'Unione Europea e quindi anche sicuramente dei paesi del G8, lo ha annunciato anche David Cameron nelle settimane passate, di adottare direttamente le regole del FACTA, che si rivelano sia abbastanza semplici da applicare sia molto facili da negoziare, perché si tratta in realtà di una semplice reciprocità nello scambio dei dati anche a livello europeo, quindi a livello di tutti i membri dell'Unione Europea e poi della stessa Europa con la Svizzera e con i paradisi fiscali. Certo, e questo dimostra in fondo ancora una volta che gli Stati Uniti sono uniti e l'Europa comunque deve raggiungere un'intesa sempre al proprio interno, giustamente come rilevava, paesi come l'Austria e il Lussemburgo sul fronte delle regole fiscali sono ancora in fondo gelosi delle proprie autonomie, esatto, delle proprie prerogative. È un esempio molto, diciamo, molto pertinente in questo campo. Pochi mesi fa una coppia di spie russe che viveva sotto falso nome in Germania è stata scoperta dalla polizia tedesca, si è scoperto che questa coppia di spie russe aveva il suo conto in banca in Austria, naturalmente grazie alle leggi più favorevoli dell'Austria, e il tribunale della città di Stoccarda, che indagava su questa coppia, ha chiesto all'istituto bancario austriaco tutte le informazioni su, diciamo, sulle due persone, e la banca austriaca le ha rifiutate a un paese vicino, insomma, non certo lontano come la Germania, con la motivazione che lo spionaggio in Germania non è un reato in Austria, e quindi la banca austriaca si è riservata di dare i dati personali al tribunale di Stoccarda. Grazie, Pennisi. Combattere con questo tipo di barriere ancora. Indubbiamente è importante non solo sotto il profilo fiscale, ma anche sotto il profilo, appunto, del controllo delle relazioni internazionali. Escamillo da Gorizia, buongiorno. Buongiorno, ci dica. Una domanda: è meglio il dollaro basso o alto per noi? La ringrazio della la risposta mia, poi lascerò Mario Platero dal punto di vista degli Stati Uniti. È che l'Europa dovrebbe vedere svalutato la propria moneta per rendere più facili le proprie esportazioni negli Stati Uniti e nei paesi ancora, che sono molti, che gravitano nell'area del dollaro. Quindi la prospettiva dovrebbe essere che la Banca Centrale Europea possa pilotare la quotazione dell'euro scendendo dagli attuali 1,30 e qualcosa fino a 1,20, 1,10. Qualcuno auspica addirittura la parità tra euro e dollaro. Ricordiamo che negli anni passati addirittura si era scesi al di sotto della parità in qualche occasione. Indubbiamente l'euro adesso ha un valore rispetto al dollaro che è sopravvalutato, e quindi sarebbe opportuno per l'economia europea che il dollaro si rivalutasse. Mario Platero. Sì, sicuramente per noi è meglio un euro debole perché possiamo esportare, ma più si indebolisce l'euro più ci costa il petrolio che invece dobbiamo importare. Dunque diciamo il bicchiere non si sa mai se è mezzo vuoto o mezzo pieno, però la regola fissa per l'Italia è sempre stata quella della svalutazione competitiva. Ecco, una svalutazione competitiva che può diventare tale anche per l'Europa, per l'intera Europa. Anche la Germania avrebbe dei vantaggi, perché la Germania è un grande paese esportatore. In fondo la Cina è legata al dollaro, anche se lentamente sta rivalutando la propria moneta, però una moneta che ha un valore più basso del valore reale. Quindi in qualche modo, in prospettiva, la Banca Centrale Europea dovrebbe tentare di far svalutare. Sì, e se ci pensi, poi c'è un paradosso, perché tutti attaccano l'euro, hanno paura dell'Europa, l'Europa in crisi, e poi c'è questo euro fortissimo, quindi il mercato in fondo dà un voto di grande fiducia sul futuro brillante della valuta europea. Ma anche perché la politica monetaria europea è diversa dalla politica monetaria americana, non tanto per responsabilità di chi la dirige, ma quanto per le regole della Banca Centrale Europea, che ha indubbiamente una camicia di forza maggiore della Banca Centrale Americana. Per esempio, lo sappiamo, la Banca Centrale Europea ha come obiettivo quello di controllare l'inflazione, la Banca Centrale Americana non ha solo questo obiettivo, ma anche l'obiettivo della stabilità dell'economia e della crescita, e quindi si può muovere meglio. Ma siamo in conclusione, Mario Platero, potremmo continuare a lungo a chiacchierare sugli Stati Uniti, perché è estremamente importante guardare a questa nostra economia globale, alle opportunità, ai rischi, alle possibilità che ci sono sui due fronti dell'Atlantico. Come viene vista, per concludere, l'Italia da New York? Ma dunque, non è l'Italia viene vista molto bene nei settori, come dire Gianfranco, tradizionali, la moda. Abbiamo straordinario successo dal punto di vista dell'immagine, del lifestyle, come si dice, e non si rendono conto gli americani che abbiamo anche un tessuto industriale molto avanzato, soprattutto nel settore delle macchine utensili, e con altissimo contenuto tecnologico. Esportiamo moltissimo e siamo molto forti su questo. Ecco, il punto centrale però, secondo me, riguarda l'investimento diretto americano in Italia. È bassissimo, le aziende americane non vengono. E non vengono per delle ragioni molto semplici: burocrazia, un fisco ballerino che all'improvviso ti fa un'ispezione, ti mette una multa e tu devi pagare, poi chissà quando recuperi i soldi, un sistema giudiziario che prima di risolvere una garanzia contrattuale ci mette degli anni. Dunque, per prudenza non vengono. Quindi, cambiamo. Mario Platero, torna a New York ricco di un po' di spunti di entusiasmo, get going, per far capire che l'Italia è un grande paese. Get going! Grazie mille a Carmelo Lauricella, regia, Alessandro Marco Tulli in redazione. L'appuntamento è ancora per domani. Ricordati! Mancano 95 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.